che usano i muratori per fare i ponteggi. Ci fa il buco nel muro col cemento, le figlie di quelle, non c'è bisogno manco del tiranti. Ma io diciamo sono appoggiato lì, l'ho montato a lei, a nessuno uno, io lì, perché il servizio di casa non vuole appoggiarci nulla. Io quell'antenna lì già l'ho fatta sbucare dal centro del tetto, te l'ho detto, messo una piattaforma di faro, affogato in questa piattaforma da 30 centimetri, che era quanta sta una nella casa fumaria, e quello lì ha trovato lì dentro e poi è cementato così a raso secco. In più, in quel palo ne entra un altro, sempre di quelli dell'antenna della televisione, e poi non ne avevo altri e l'antenna risulta falsa. Però se abbiamo tutto tempo, col palo di oceani, fate tutte queste belle cose, avendo altri due o tre di queste cose delle cane fumare, avrei cementato tre o quattro giorni il palo di oceani. Fate questa roba, allora avrei comprato la mantova. Ma te l'ho detto, non l'ho comprata per come soli, perché ho visto adesso qui ci vuole solo una cosa non indifferente, e però pare essere quella. No, c'erano, come fa a prendere? Sono andati a mangiare e poi non hanno ripreso. Però ti stavo dicendo, ma comunque con l'attrezzatura che c'hai sarebbe stato il gioco da ragazzi fa, capito? Ti avrei dato dei consigli io magari. E poi lo sai che è obbligato a fartelo mettere l'antenna? Se c'è un appoggio è obbligato a fartelo fare. Io lo so che io sono tutte le leggi già, però lo sai già cos'è, io non voglio avere poi il vicino di casa, capito, è molto più, lo sai cos'è quello già, un ingegnere elettronico che va per l'università, che non trova poco capitale, sono delle persone bravissime, tutto quello che vuoi, ma capito, se sono quelli di una pignoleria che tu manco che, perché se io piazzo l'antenna attaccata a quel muro andrebbe a toccare nelle sue antenne della televisione, perché sono attaccate, lui ce l'ha ferrata l'altra parte delle, e succederebbe un coro già, e non voglio avere niente a che fare, perché so, se mi adiro c'ho anche un brutto carattere, lo so che sono tutto, che c'è il diritto uno di installare l'antenna che se non c'ho posto nella serata del lato, per cui io già preferisco aggiustarmi nel mio piccolo, perché se no poi diventa già che non ci cambia il mio qui per sempre, ripeti. Sì, se no le fa il tetto di cemento sopra il tetto, le fa una specie di cupoletta, ci fidi dentro il tubo di cemento tutto quanto, e via, stai andando. Quello lo può fare, sa come si chiama, della soffitta, salire con queste robe che ti ho detto che ho fatto la canna fumare, me ne l'ha fatta una, io ne compro altro, le porto fino alla cupola del tetto, capito, lo faccio uscire via, solo come voglio fare io, così, da solo i tubi innocenti, e dopo il tempo innocenti faccio l'innesto a un altro tubo più lineare di quello della televisione. Alla fine di questo tubo ci salverò un tubo del diametro che è in l'antenna, capito? Tipo quello della televisione, poi in acciaio, se non lo rompia come nulla. Beh, certo. Oh, in cosa di gatto, non è la zingatta. Vanno bene qui, quei tubi, diciamo, l'unico sarebbe comprare di quei tubi della parabola che c'è tutti i tempi, inizia grosso e finisce più fino, però il tuo filo fino non ce l'ha. Già lo so, già queste idee, ma io parlo anche da lì da scandellare, da qualche uno compro il tubo in luce, no, c'ho amici muratori, uno me lo danno, se non voglio dire. Però poi quello che faccio un innesto dentro, il tubo innocente, quello si compra e come stai dicendo, poi lo farò, che sono queste bombolette gamba delle botte andiamo giù. Antes del partito, va. Sì, è già. Dormi così. Te l'ho lanciato, dove è forte. Non me ne accorgo molto perché mi sono trovato a voce questo capo di quello che mi ha vestito della montagna, sono già da vino. La verità è che ti l'ha fatto il sonno, là. Ecco un po' quello, un giallo. Quello io ti ho chiamato, ti ho chiamato Giuseppe, ti ho chiamato pure io, insomma. Non mi ha rifuso. Riprendi, caro. Stavo parlando come fare l'impianto dell'antenna. Seguendo il discorso. Tu a proposito cosa dici? Se si compra un'antenna del genere bisogna fare quel lavoro per lui, bisogna mettere belle tappe, belle fissate a muro e poi piazzarla. Fare un bel lavoro. Tanto Staffa non ne può mettere, non ne sentite. Ma deve mettere a 180, lui vuole fare una specie di cupoletta in cemento, mette da bagno il tubo e farlo partire dalla soffitta sino arriva di su al tetto. Chiaro, ma lo vuole fare entrare dentro anche, no? Sì, dentro. Meglio, Senza armato, cantoni e coso. Un po' di graniglia, di ghiaia, con un gettito di cemento, vedi si muove più. Vuole passato bene, vuole fare un bello robusto. Beh, vuole fissato bene, sì. Insomma, c'ha il campi 2, non è con il termo che già lo sa fare, tutti lì. Già, ne fa di bei lavoretti. Sì, no, per carità. E poi si piazza l'antenna su. Guarda, attenzione prima di andarla a misurarla se tutto a posto, perché già lo sai cosa succede, sì. Yeah. Prima la volevano abbattere, adesso si stanno fermati a voler portare. Diciamo che uno in casa sia non può manco mai riuscire in viaggio. Il fatto è già, io dico quello, non vogliono accoppare nulla, io ho fatto la facciata, non mi hanno dato la colpa, neanche una lira, capito? Io in questo restauro non ho preso nessun occhio, non ho preso, ci ho messo dei soldi io e dei soldi di mio padre, non abbiamo preso nessun occhio dalla regione, li abbiamo messi di tanti nostri i soldi e senza chiedere una lira di avi. Cosa vuoi fare? Loro pretendono mandare, no? Non fai su. Ti senti a poco, diciamo. Ho detto pretendono mandare, non sono capaci. Così amici, ti guarda, 1, 2, 3, 4, che c'è la macchina abbassata. Come si chiama, non stanno pretendendo nulla gli altri. Se invece di darli anche a questi restauri, li darebbero a questa gente che è disoccupata e adesso che aggiungono tutte queste cose a questo povero, adesso qui stiamo guardando più anche definitivamente la giustizia e non si darebbero a questa gente già, capito, e si sveglierebbero i sonni, perché io ho rifatto, io sono una persona molto pazzista, però io ho molto carattere. E io sarei andato a fare mammacello a, come si chiama, quando vedo i turisti ai posti del corso, perché questi pendoli siamo noi farli, non ho mai capito come la Roma, che ho visto questa manifestazione che hanno fatto a Roma, e hanno tirato anche una manganellata in faccia, non so se avete visto. Bisogna che si trovasse loro in quella situazione per capire la gente, ui, per carità. È normale che lo si incatti quando si trova così con roba da pagare, non riesce a pagarlo, e prima era un signore, pagava tutto. Stanno a fermi, quando credo, se quando la gente in società stanno andando a buscare, già, negli anni 70, non c'era più di tutte la fine, perché c'era la petrochimica, c'era la nostra roba di c'era tutta cosa, stava funzionando già la Sardegna, stava funzionando, questa roba si è creata dalla disoccupazione, da tutte queste accidenti, stanno fuori, prima il territorio l'hanno sfruttato, hanno fatto, come si chiama, che non avete visto il telegiornale di quella cementeria di Porto Torre, e adesso vivo muore tutto purificato, perché e come si chiama, dicono ma li trasferiamo, non so dove, ma perché c'è una cosa è stata fatta in Sardegna tanti anni, che rendeva, perché io ho sentito degli operai che stavano parlando, non mi ricordo che prodotto era, che qui stava, che rendeva tranquillamente, perché non continuare a farlo qui, a produrlo, a fare questa roba, quindi per lui si cucina roba del genere, non so se è seguito. Vabbè, c'era Antonio che stava chiamando, aspetta, Antonio. Sono qua già. Mi ha chiamato poco fa, dimmi. Ma volevo sapere una cosa che non è la quella, perché non c'era. C'è quella appena che c'è Capri 2, lavora in corso come la Mantova. Ma no, non penso comunque, avanti Capri 2. Adesso c'è questa specie di listato di QRM e mi supera il 5, non so da cosa dipende. Beh, è un listato, ma non sta con questa cosa, non so, stavo dicendo a voi, dimmi già. Niente, ti ha fatto un quesito, vuole sapere se la tua antenna funziona in corto come la Mantova. Non ti saprei rispondere a questo quesito. Però diciamo che se qui c'è del piatto siamo adesso che noi adesso vediamo un po', che era per camminare, dove abbiamo tutto, però l'avevo conservato, ho filmato il mio, ma Che quello lì, poi c'è un altro che quello funziona, che chiamato voi per farmi due chiacchiere, anche per farmi sentire, per salutarvi già, e vi auguro, diciamo, una buona rimessa in senso per l'operazione, ma ci sentiamo adesso quasi ogni sera, salvo qualche imprevisto. Per il momento vi saluto, ciao Antonio di nuovo, e vi lascio a te Gianni, ascolto il finalino, poi passo in quello di SK, la K1 è modulato. K1, K2, dai. Ti ringrazio per la tua guarigione, ti auguro una buona notte e un trabacco per domani. Mi ha fatto piacere sentirti, con noi siamo sempre qua, avanti Antonio. K2, siamo alle prossimine, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao. Vai a nanna, vai, ti sento la voce. Un po'... un pochino così sto, sono molto lucido. Ciao, comunque gli auguro una buonanotte. A lui è tutto il cuore a familiare. Tu a letto te ne stai andando adesso, io vai a nanna perché si sta. Sì, voglio qualcosa, insomma. Sembra la voce. È un pochettino stanchino, insomma. Mi fanno male tutte le mani, certo. Mani? Come mani? Intanto è tutto di calde, sempre un pochettino le mani spaccate. Perché c'è il calde che ti spaccano le mani? Qualche volta mi succede, non è uno qua che diciamo, su quel grasso di Dio, no, io me le taglio con le forbici, non li faccio crescere. Oh, quando sono grossi li taglio con le forbici e via. Purtroppo quando prendi quelle bombole che nulla a fare, escono. Ti metti i guanti? Come fa ora? Te li metti sino a quando prendi la bombola, poi quando la cali la bombola, ti tuvi, non per piazzare. Comunque trovano lo stesso per il peso anche, mi aggallo, cioè. E se ne ho uno spaccato uguale, sta dando fastidio. C'è un po' di calorifico te lo fa uscire. Dai. Calorifico, ti fa seccare i porri, i calli, eccetera, eccetera, te li fa venire fuori. Calma. Oh, tanto sempre una cosa continua, già, oramai sono abituato. Prova con i guanti. Con i guanti in pelle. In questo periodo. Proprio adesso non posso vedere come si fa, ma alla fine mi passa. Meglio così. Però che stanno a far fastidio quando, cioè quando si muovono su spacco, mamma mia. Stanno male, non danno fastidio agli animali. Ma un pochettino male, ma non più di tanto, oramai c'ho sull'abitudine, c'ho. Sto vedendo di spaccare e rompere un po' di scarto che fa. E da una parte solo, Cappagatto. Rarrece. Maledette, sono maledette. Infatti mi rimane così, si parla. Fa tinta forse anche, magari irritante. Sì, anche. Dai, non so che lei usano di quella tinta. La usai, anche ti preghi. L'ingrosso, la fanno all'ingrosso. Mettono la tinta con le parete invece che sfruttare. No, quella no. Io ho quella tinta. Infatti, quando siamo un po'. Sì, le pulisco con la sabbia. E poi le sabbiatrici e poi le vernicce, io non so come le fa. Le sabbiatrici, da voi via a verniciare. Non controllate, colorate. E poi. Chi è che le colora le bombole? organizzazione. Sì, credo che lo stesso per il comando con le vigili del fuoco, roba così. Ciao.